Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Fa un passo avanti il provvedimento sul maestro unico, ma a ben vedere somiglia più a un passo indietro. È infatti arrivato il via libera della Commissione Cultura della Camera al piano programmatico sulla scuola. Il parere favorevole della Commissione rende esplicito che le classi affidate ad un maestro unico funzionino con 24 ore settimanali solo su richiesta specifica delle famiglie. Altrettanto esplicito il fatto che le classi a tempo pieno siano assegnate a 2 docenti per classe. È importante questa precisazione perché in realtà non era scritto da nessuna parte finora, generando le preoccupazioni che hanno portato tanta gente in piazza. Altra novità della settimana è il via libera del Senato, ora il provvedimento passa alla Camera, del decreto 180 sull'università, con qualche novità che ci spiega il relatore della legge, il senatore Giuseppe Valditara del PDL. Per la prima volta nella pubblica amministrazione gli scatti biennali, gli scatti di stipendio non sono più automatici, ma sono collegati al merito, cioè alle pubblicazioni scientifiche fatte. Si introduce con questi emendamenti l'anagrafe delle pubblicazioni scientifiche in modo che chiunque possa sapere con grande trasparenza chi ha pubblicato e che cosa ha pubblicato. Si introduce l'obbligo per i rettori di rendere conto pubblicamente anche su internet dei risultati della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico alle imprese, cioè sostanzialmente quanto quelle università hanno contribuito all'innovazione del mondo produttivo. E poi si fissa anche un altro principio importante, che si può entrare in commissione di concorso, i professori potranno entrare in commissione di concorso soltanto se avranno pubblicato negli ultimi 3 anni, cioè se avranno pubblicazioni scientifiche adeguate negli ultimi 3 anni. Questo per evitare che entri in commissione di concorso chi in realtà è estraneo al dibattito scientifico. Però gli studenti sono tornati in piazza e l'opposizione non è detto che ha comunque promesso di nuovo battaglia. Cos'è che non va a questo punto? Beh, devo registrare che alla Sapienza di Roma le liste che contestano sono state clamorosamente battute. Quindi iniziamo a dire che gli studenti hanno scelto la linea del centrodestra nella più importante e più numerosa università italiana. Quanto all'opposizione, lascio soltanto a voi giudicare l'atteggiamento di Nicola Rossi, un autentico riformista che si è palesemente, apertamente dissociato dall'atteggiamento della propria parte politica, contestando il voto di contrasto negativo nei confronti di questo provvedimento. Queste erano le parole dunque di Giuseppe Valditara, che l'abbiamo sentito, ha accennato al risultato delle elezioni delle rappresentanze studentesche alla Sapienza di Roma. Non è andata bene per le liste di sinistra, quelle che stanno protestando contro i provvedimenti del ministro Gelmini. Non è andata bene dunque per l'Onda, che ancora ieri manifestava in piazza. Francesco Brancaccio di Scienze Politiche. Non c'è stata alcuna vittoria o quantomeno non c'è stata alcuna sconfitta dell'Onda, perché l'Onda non si è candidata a queste elezioni, c'erano alcune liste no Gelmini che si sono candidate e che hanno presentato le liste nel mese di settembre, quando ancora le proteste non erano esplose, ma questo non c'entra nulla con la battaglia che l'Onda sta portando avanti e quindi sul ritiro della legge 133 e sulla trasformazione dell'università. Quindi utilizzare il dato delle elezioni studentesche universitarie a cui hanno partecipato 13.000 studenti su 140.000, quindi non mi sembra proprio una maggioranza silenziosa come qualcuno l'ha definito, mi sembra davvero un gesto di debolezza. Nessuna il problema è colpa? Ma assolutamente no, l'Onda ha sempre ribadito fin dall'inizio la sua irrappresentabilità, la sua incomprimibilità. Ecco, però che significato ha non presentarsi alle elezioni universitarie? Cioè va ha bene restare di delegittimare fuori? Ha il significato di delegittimare quei meccanismi, ha il significato di delegittimare dei meccanismi che sono già di per sé non democratici. L'avanzata delle liste di destra in qualche modo Le liste di destra hanno vinto perché hanno fatto brogli e clientelismo. Cioè, noi abbiamo visto dentro i seggi elettorali delle situazioni indegne, non controllate da nessuno, favorite dal rettore Frati. Queste liste di destra che fanno l'apologia del ribellismo contro i baroni sono del tutto ridicole, perché queste liste di destra in realtà sono al servizio poi del baronato, e quindi questo discorso anche di ribellismo verso il baronato cade del tutto laddove vedi dei docenti, dei presidi, dello stesso rettore che le sostiene alle elezioni. Quindi questi hanno fatto una campagna elettorale dicendo basta con i baroni, e poi i baroni gli hanno dato i voti per poter andare a fare i rappresentanti. È una situazione del tutto falsata e ridicola, ma qui gli studenti, quelli che attraversano l'università tutti i giorni, sanno benissimo che è così. E allora sentiamoli, vincitori delle elezioni alla Sapienza di Roma. Cristian Alicata, studente di Scienze Politiche e rappresentante di Azione Universitaria. Nessuna sorpresa per questa vittoria, ci dice. No, non c'è sorpreso, perché comunque il lavoro era stato fatto da Andrea, tanto che dicevamo che comunque quest'onda che c'era all'università non rappresentava tutti gli studenti, ma rappresentava solo una parte, che c'è una maggioranza silenziosa che comunque era la maggior parte degli studenti e quindi avrebbe comunque ottenuto il risultato perché rappresentava un buon numero di studenti, e così è stato, perché 1700 voti che abbiamo ricevuto, siamo diventati terza lista dell'Ateneo, lasciando dietro tutte le sinistre, penso che sia un ottimo risultato. I vostri colleghi dell'Onda, insomma, parlano di brogli e clientelismo dietro ai risultati di questo voto. Su questo ci saranno gli uffici competenti che accetteranno. Noi abbiamo fatto un risultato e comunque il risultato è quello che è uscito alle urne. Se poi ci saranno ricorsi, verranno, quello saranno gli organi competenti a accettarlo. Ecco, adesso che cosa pensate di fare? Nel senso, avete ottenuto comunque un ottimo risultato alla Sapienza, allora a questo punto stop alle occupazioni, stop alle manifestazioni? Secondo me sicuramente ci imporremo su questo, ma non per fare qualcosa contro qualcuno, ma per garantire all'interno dell'università un sistema di vivibilità un po' più consono ai capi dell'università rispetto a quello che era in questi anni, in cui l'università era diventata un bivacco per chiunque, dove non regnava legalità, dove non veniva garantito il diritto allo studio degli studenti, che comunque venivano bloccate lezioni, c'erano interruzioni sonore, era tutto comunque una grande confusione che noi cercheremo naturalmente con i sistemi che l'università ci dà di garantire almeno questo, una vivibilità e il diritto allo studio per tutti. Va tutto bene all'università o comunque ci sono delle cose da cambiare? No, ci sono tantissime cose da cambiare, tanti sistemi comunque da scardinare. Da dove comincerete voi? Cominceremo intanto a far sì che l'amministrazione universitaria sia comunque un luogo un po' più trasparente. Una settimana fa moriva in classe Vito Scafidi, 17 anni, nel crollo del soffitto della sua aula a Rivoli. Ora noi ci spostiamo di qualche chilometro, ma restiamo nella provincia di Torino. Non è questa fra le scuole peggiori segnalate da Cittadinanza Attiva e che trovate sul nostro sito radio24.it, ma ve la vogliamo raccontare lo stesso questa storia. Siamo a Pinerolo. Dopo il crollo di sabato a Rivoli, la preside del professionale Porro ha chiesto immediatamente rassicurazioni alla provincia, soprattutto sul collaudo statico dell'edificio. Dalla provincia però nessuna risposta, e così martedì la preside ha mandato tutti a casa. Solo ieri mattina gli studenti sono tornati sui banchi perché finalmente la provincia ha rassicurato sulla staticità dell'edificio, su cui però pesa un'ispezione per niente tranquillizzante dell'ASL. La preside inspiegabilmente non ci ha voluto parlare, l'abbiamo cercata per giorni. Allora ci siamo fatti due chiacchiere con Gianni Paschetta, rappresentante di classe, che in quella scuola ha un ragazzo di 17 anni, proprio come Vito. C'è la parte nuova, quella che dove c'è l'ITIS, e una parte in cui ci sono sempre un po' di problemi per come è stata strutturata, per come è fatta. Tipo? Che è volato via col vento, era volato via una parte del tetto della torre, cioè si era spostato il tetto della torre dove c'è la torre delle scale, e di conseguenza un tetto parte in lamiera, mi risulta. Sì, adesso è chiusa quell'ala lì. Lo credo bene, senza tetto. Andranno a scuola usando la parte di là. A quanti anni fa risale questa scuola? Non ho ben presente, ma penso una trentina d'anni fa. Cioè, sono quelle scuole in cui venivano fatti dei progetti e venivano fatte delle scuole un po' alla veloce. Certo, è vero che piove anche in classe, che ci sono delle bacinelle. Sì, c'erano state dei problemi di infiltrazione all'interno delle classi, che poi è stato rifatto il tetto e quindi è stato un po' risolto quello. Il documento dell'ASL parla anche di crepe. Ah, ma sicuramente lì. Quindi insomma crepe, anche qualche piccolo distacco di materiale, cioè qualche calcinaccio che viene giù ogni tanto, insomma. Ma no, lì era successo mentre eseguivano dei lavori sopra, proprio per mettere il tetto che non piovesse più l'acqua, era successo che con gli operai erano caduti dei calcinacci dentro le aule. Vabbè, se non cadessero sarebbe meglio, però insomma voglio dire, non è una cosa normale, siamo forse però, abituati a peggio, e allora ci sembra normale che venga giù un pezzo di calcinaccio. Solo che adesso, dopo che saltano fuori queste cose, gritano tutti al lupo, ma quando in realtà si sapevano queste cose, si sapeva di lì, come si è saputo in tante altre cose, nelle altre scuole in cui la 626 è sempre stata volata. Suo figlio ha l'età di Vito, che è morto una settimana fa. Lui quando ha visto in televisione, immagino che abbia saputo, si è un po' preoccupato, insomma. Ma certamente, loro sono un po' preoccupati, i ragazzi, mi dice, cazzo, si va a scuola e si rischia di ti becca qualcosa in testa, perché la scuola non è ben fatta. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.